cartellone di Elisabetta Fiorito. Buongiorno, buongiorno, grande attività teatrale dopo Pasqua, molti teatri hanno ripreso la programmazione, noi abbiamo scelto uno spettacolo classico ma sempre esilarante, sempre bellissimo, quello che è in scena al Teatro Quirino di Roma, La Fortuna con la F maiuscola, una commedia di Edoardo De Filippo e Armando Curcio, interpretata da Luigi De Filippo, il figlio di Peppino. E allora noi siamo andati alla prima che c'è stata martedì scorso, la commedia sarà in scena fino al 25 aprile, per scoprire che cosa avviene in scena e dietro le scene. Ma io me la prendo con filosofia, in fondo non ti scherzo, un giorno o l'altro a fortuna un figlio va male, mi porto lontano da tutto questo. In fondo sapete, per me la vita è come una pentola di fagioli che bollono. Sapete come fanno i fagioli che bollono in pentola? Quelli di sotto salgono sopra, quelli di sopra scendono sotto. Io mi auguro di essere un giorno un fagiolo che sa. Ho capito, ho capito. Siamo nei camerini del maestro De Filippo, Luigi De Filippo. Qual è la lezione di questa commedia storica dei fratelli De Filippo? Innanzitutto tengo a precisare che è uno spettacolo che sta avendo un successo veramente eccezionale. L'ho recitato in tante città d'Italia, dovunque è stato veramente un trionfo. Il pubblico era divertito, soddisfatto. È una commedia molto divertente, ma che fa anche riflettere, fa anche pensare. E in fondo in questa commedia c'è il vero senso della vita, che è la speranza che abbiamo tutti, che il domani sia migliore dell'oggi. E questo è un tema ricorrente delle commedie di noi De Filippo, la voglia di migliorare il proprio stato, alle volte anche eventi familiari, le difficoltà di rapporti fra marito e moglie, fra genitori e figli, visti naturalmente con umorismo, con ironia, in modo da interessare il pubblico, ma divertendolo. Avevo 12 anni quando è andato in scena per la prima volta proprio qui al Teatro Quirino. Io mi ricordo, uscivo dalla scuola, dal liceo ginnasio Visconti dove io frequentavo, venivo qua, posavo i miei libri per terra, mi sedevo giù per terra e guardavo le prove che facevano mio padre Peppino, mio zio Edoardo. E credetemi, io riflettevo a me stesso, dicevo allora, quando li vedo recitare assieme, mi imparadiso. Vedete, molti si chiedono come mai queste commedie dei De Filippo, di Edoardo, di Peppino, anche di Curcio, che io recito da qualche anno, come mai hanno tanto successo, se lo domanda chi non le vede rappresentate da me. E il motivo è semplice. In queste commedie, oltre alla comicità, c'è il senso della vita, c'è la speranza che abbiamo tutti noi che il domani sia migliore dell'oggi. Oltretutto sembra un tema, no? Un po' così strampalato, la fortuna, perché il protagonista è come se vincesse un super enalotto, si direbbe oggi, perché a un certo punto eredita una fortuna. Non riesce ad acquisire questa eredità per un cavillo giuridico, però il titolo è giusto, La fortuna con la F maiuscola è quella che il destino non te la fa pagare, perché spesso i milioni fanno paura, spesso la fortuna bisogna pagarla con dispiaceri, sventure, e invece in questo caso, in questa commedia, è una fortuna veramente con l'F maiuscolo, perché il protagonista riesce a goderne appieno. Fuori dal camerino possiamo dire, è appena passata la Pasqua, c'era pure la pastiera napoletana. Quanto Napoli può essere un monito, una città con così tanti problemi, sia ieri che oggi, per tutta l'Italia, e quanto invece poi si può rialzare? Ma Napoli si rialzerà certamente, perché come l'araba fenice rinasce dalle sue ceneri, sembra sempre che stia per morire, ma per fortuna poi rinasce, perché c'è nel DNA dei napoletani la voglia, la volontà di superare dei momenti difficili, e così sarà anche questa volta. Qual è l'eredità che sente dalla sua famiglia, da suo zio, da suo padre? La passione per il teatro, per le cose belle, per le cose intelligenti, l'amore per la mia città, per le mie radici, che sono fonti sempre di ispirazione. Buongiorno! Buongiorno, scusatemi, abbiamo fatto tre cose in grado di farlo, perfetto? E poi io guarda, ma certamente le dà la lettera da portare alla mamma, guarda, non guarda. Sono Mariana Mercurio, in questa commedia interpreto Donna Amalia, che è una donna insomma un po' birichina, nel senso che c'ha l'amante e per colpa sua succedono delle cose un po' così, vai, non posso dire che cosa. Quindi una sorta di sciantosa, un po'. No, non proprio, una donna sposata che però purtroppo non riesce a fare il suo dovere di moglie, diciamo allora, così. Allora, Don Giovanni, ammalato siete voi, io, no? E il ragazzo, il Duccio. Ma dottore, lui che ieri per il volo non ha parlato più. Ma così, di punti bianco, non pensiamo a un fatto del voto. Cosa ho capito, ma l'avete brucato? No! Io non mangio niente, è pericoloso. No, per prima cosa, le viscere pulite, scuola salernitana. A Salerno si burgono, ma qua non è. Vediamo subito, allora dimmi che ti senti, giovanotto, dimmi. No, guarda. Allora lo visitiamo immediatamente. Vieni qua. Non aver paura, il dottore ti vuole bene. Dunque, io sono Alberto Pagliaruno e interpreto il medico Gervasio che va a visitare questo ragazzo che ha dei problemi, eccetera, eccetera. Una scenetta molto divertente. Che significa recitare con De Filippo? È la tradizione, è la tradizione. È una gioia, è un onore ed è scuola, alta scuola, nonostante io abbia una certa età, è comunque sempre scuola. E sono felice di recitare con lui. Insomma, poi, grosse soddisfazioni. Sempre attuale. Sempre attuale, diciamo, i testi sono sempre attuali, lui, il maestro, è sempre attuale, insomma, è serie A. È serie A, ma quanto poi il teatro dei De Filippo ha influenzato tutto il teatro italiano del dopoguerra? Ma il teatro dei De Filippo ha influenzato parecchio il teatro italiano del dopoguerra, perché, ecco, il punto del fatto sempre attuale, è strutturato in modo da essere sempre attuale in qualsiasi periodo, in qualsiasi epoca. Ci sono sempre quelle situazioni, quelle condizioni che, nonostante queste cose sono state scritte tanto tempo fa, sono sempre attuali, sono le stesse. Loro vediamo nel futuro. La battuta più bella della commedia? La battuta più bella della commedia, sono tutte belle. Vabbè, la sua? La mia, ma l'avete purgato. Sì, sono andate da Don Giovannino. Ce l'ho detto che non tornava a casa perché qua non ci stava niente da mangiare. Ecco, e quello se l'è preso proprio. Perché a mamma, perché? Perché ne so? Perché esci di pazzo, tu vedi che cosa c'entra? Vabbè, oggi perché ce l'ho detto da mangiare la gente. Paolo Pietrantonio nel ruolo di Enricuccio. E quindi del figlio che non ci deve essere. Esattamente. No, del figlio che loro hanno, ma che non è un figlio effettivo, diciamo è un orfano che loro si sono cresciuti in casa, che però combina insomma un po' di pasticci e scombina un po' di situazioni. Un personaggio molto divertente, molto simpatico. La battuta migliore? La battuta migliore, diciamo che sono più di espressioni, perché è un personaggio molto d'espressione. Però ce n'è una carina che mi piace, che è quella... Oddio, carrozza da funicolare scassata, che è un'offesa che io faccio alla portiera, che mi diverte molto dirglielo perché fa una faccia ogni sera sempre diversa, quindi mi diverte molto. Però anche un trucco particolare, perché vedo che sono le sopracciglia unite molto, dalla parte. Diciamo una sorta di zio Fester rasato con questi occhiaie, con questo sopracciglione, perché in effetti è un personaggio molto comico, è un ragazzo un po' sfortunato che però diciamo fa, come si dice da noi a Napoli, lo scemo per non andare alla guerra, no? Quindi fa un finto furbo, però vive in questo suo mondo molto particolare, fatto di giochi. Insomma, molto, un bel personaggio, devo dire. La fortuna con la F maiuscola al Teatro Quirino fino al 25 aprile, ma reduce da tantissimi successi. Grazie, maestro. Cartellone. Sono stanco della collina infinita. Si è fatta dunque troppo pesante questa corona ferrea che porto, eppure risplende di mille gemme. Io che la porto non conosco più i suoi lontani splendori, ma avverto di portare un qualcosa che sfavillando acceca. Lo so che è ferro e non oro, ed è pure crepato, lo sento. La crepatura mi tormenta, tanto che mi pare che il cervello batte contro il metallo. Sì, è d'acciaio il mio cranio, di quelli che nella lotta più aspra non hanno bisogno dell'elmo. Un tormento, quello di Ahab, il comandante della nave, della baleniera più famosa del mondo, la baleniera che cacciava la balena bianca, Moby Dick. Trilogia della catastrofe a Lubriano, in provincia di Viterbo, al Teatro dei Calanchi, è iniziato ieri con l'Infinito di Leopardi e finirà invece domani, domenica, con Naufragio con spettatori. Ma stasera, come abbiamo sentito, c'è Ahab. Buongiorno Gianni Abbate. Buongiorno a voi. Studiate queste grandi tragedie, che cosa fate in questi tre giorni a Viterbo? In questi tre giorni facciamo questa trilogia della catastrofe, ovvero catastrofe non in senso proprio catastrofico, perché anche se abbiamo bisogno tutti, come dire, di una catastrofe per un attimo risvegliarci e riprenderci da questo mondo che ci porta a precipizio verso non si sa bene cosa, il nostro ignoto. Ecco, la trilogia della catastrofe racchiude tre spettacoli, tre eventi che sono appunto ieri c'è stato Leopardi, @infinito.it, ovvero una serata dedicata all'opera notturna di Leopardi. Quindi dove... non solo l'Infinito, Canto del Pastore, no, errante dell'Asia, insomma ce ne stanno parecchie. Esatto, esatto, e tra cui c'era anche un'operetta morale, quella dello Gnomo e del Folletto, che poteva sicuramente essere stata scritta nei giorni nostri, perché parla appunto di questo gnomo che sale in superficie e chiede al Folletto come mai non si vedano più gli uomini, e il Folletto gli dice: ma come, non sai nulla, il genere umano si è estinto. Ma come è successo, com'è possibile? Eh sì, un po' guerreggiando fra di loro, un po' si sono suicidati, un po' insomma il genere umano si è estinto. Ecco, è un qualcosa che sarebbe sicuramente potuto essere scritto ai giorni nostri. Ecco, perché, ma noi speriamo nell'accordo per la smilitarizzazione di Obama di questi giorni e per non far estinguere il genere umano, no? Sicuramente, sicuramente, però è un monito per dire anche noi nel nostro piccolo dobbiamo fare qualcosa, ecco, non aspettare solo che Obama intervenga e faccia, quindi risvegliamoci un attimo anche noi da questo letargo e non affidiamoci solo ai grandi, cosiddetti grandi della terra, ma facciamoci sentire anche noi nel nostro piccolo, ecco. E, mentre stasera, dicevamo, abbiamo questa rivisitazione del Moby Dick, una versione particolare, ridotta, se si pensa che il Moby Dick è un romanzo di più di 700 pagine, io ho fatto una riduzione, una sintesi praticamente del Moby Dick, riducendolo a due personaggi fondamentali, ovvero quello del capitano, appunto Ahab, e Ismaele, la figura del che è il giovane narratore, che praticamente il narratore è l'unico che si salva, che secondo me, diciamo, Ismaele, il giovane Ismaele, fa anche un percorso di crescita, nel senso che lui da adolescente deve maturare, ecco, perché praticamente è come un rito di passaggio dall'adolescenza alla maturità. E si scontra con questo, invece, con questo terribile capitano Ahab, invece, che vuole andare in fondo praticamente ai suoi abissi, al male che ognuno di noi ha nel fondo anche e lo vuole combattere. E poi soprattutto ricordiamo questa ossessione per catturare la balena bianca, sì, che poi sarà la fine, no? Che causerà proprio la fine. Esatto. E poi abbiamo invece Naufragio con Spettatori domani, quindi sono tutte e tre concentrati poi sul naufragio questi spettacoli, perché ricordiamo il più bel verso della poesia italiana è il naufragarmi è dolce in questo mare, da infinito esatto. Chiocciola, no, leopardi chiocciola infinito.it, sì, quindi esatto. Abbiamo il naufragio poi di Achab e poi abbiamo il naufragio con gli spettatori. E che cosa succede con gli spettatori? Perché si naufraga? Si naufraga nel senso perché stiamo parlando della fine del Titanic e quindi gli spettatori saranno come dire coinvolti come se stessero anche loro sul Titanic che si naufraga dolcemente tutti in mare. Ma anche questo, diciamo, la fine del Titanic che cosa rappresenta? È lo scontro proprio della onnipotenza che vuole avere l'uomo sulla natura. Ecco, aveva costruito questo Titanic, che allora era la massima espressione tecnologica, che però, ahimè, si scontra con un iceberg e affonda. Quindi, ancora una volta, è un monito, ricordiamoci che noi non siamo onnipotenti in questo mondo, ma siamo solo un tassello di questo mondo, facciamo parte del tutto, dell'universo, e quindi non abusiamone. Allora io Gianni la ringrazio, noi siamo un po' più diciamo così terra terra, quindi abbiamo recuperato Céline Dion per immergersi in questa atmosfera di naufragio, sia quello del Titanic, sia quello di Leopardi, sia quello lì di Achab. Ricordiamo a Lubiano, Viterbo, Teatro dei Calanchi, ancora due serate, Moby Dick e gli orrori dell'abisso da Melville e poi domani il naufragio con gli spettatori ricordando la tragedia del Titanic. Grazie. Grazie a voi. Lo so. E chi ha detto? Loro. Quando? Prima. Strano, Chiara mi ha detto che ero l'unico a saperlo. Buonasera! Ah, ciao Alessia! Ecco, conosci Sergio, un carissimo amico di Bruno. Buonasera. Allora che? Ho visto Chiara. Che ti ha detto? Poi ti dico. No, adesso. Aia! Ci scusi! Stiamo parlando di Bruno e Chiara, si sono lasciati! Lo sa già. Gliel'hai detto tu? No. Me l'ha detto Bruno. Perfetto! Adesso lo dicono a tutti. E adesso andiamo dietro le quinte del Teatro Italia a Roma, dove è in scena fino al 25 aprile un piccolo gioco senza conseguenze della compagnia Kitchen Company. Ilaria Falini e Luca Avagliano interpretano una coppia che sta insieme da 12 anni, però a un certo punto decidono di dire che si sono lasciati. Ilaria interpreta Chiara. Che cosa succede in scena? Non si lasciano. Chiara lo dice per scherzo, perché è esasperata dal cugino di Bruno, Patrizio, il quale comincia a dirle che secondo lui loro somigliano alla coppia che fa la pubblicità delle fette biscottate. E questa cosa la esaspera perché vengono paragonati appunto a questi due che a letto mangiano le fette biscottate. E così per fare uno scherzo decide di dire che si sono lasciati. In realtà non è vero. La notizia si sparge, tutti vengono a conoscenza della cosa, cominciano ad uscire fuori delle verità, tradimenti, opinioni rispetto alla personalità dei due, eccetera, per cui alla fine la coppia scoppia. La coppia scoppia, però non lo diciamo. Allora invece Bruno è il suo uomo, praticamente. Sì, io sono Luca Avagliano, interpreto Bruno e sono colui che subisce il gioco, che si trova a suo malgrado nel meccanismo del gioco che non vorrebbe affrontare. E in questo sì, è costretto a confessare un tradimento, a subire appunto gli interventi di parenti, amici che esprimono giudizi anche abbastanza feroci su di me. Sono moscio, mi viene detto, il che insomma mi mette in difficoltà agli occhi di... Anche perché Chiara stessa comincia a vederlo con occhi diversi. Proprio perché comincia a dar retta alle opinioni degli amici. E quindi in qualche modo tra loro due nasce un dissidio, insomma. Un dissidio che poi però si trascina e ci sono 5 personaggi, giusto? Personaggi, gli altri attori sono Daniele Parisi, interpreta il ruolo di Sergio, un amico di vecchia data di Bruno che capita a fagiolo alla festa perché lui decide di corteggiare Chiara, è innamorato di lei già da tempo, anche se nessuno lo sapeva, per cui coglie l'occasione, anche lui pensa che i due si siano veramente lasciati e la corteggia. Poi c'è Patrizio, appunto il cugino rompiscatole, che viene interpretato da Diego Valentino Venditti, e poi c'è la migliore amica di Chiara, Alessia, interpretata da Daria Daloia, la quale si scopre essere stata... La tua amante, Bruno. Sì, una mia preda. O forse io una sua preda, perché sono un personaggio del tutto inconsapevole di quello che lo circonda, che appunto subisce tutti i vari meccanismi divertenti che la commedia, comunque è una commedia ben scritta, fa emergere. Tanti giochi, tanti... Quindi sei moscio, però poi alla fine un po' di corna l'hai messa. Sì, sì, sì, ma in maniera moscia, nel senso... Ah, pure quelle. Sì, sì, sì, io subisco. The Kitchen Company, sempre personaggi molto giovani, no? Abbiamo questa commedia, 5 personaggi, però tutti quasi della stessa età. Sì, siamo, sì, presso poco tutti giovani, abbastanza giovani, e la compagnia nasce nel 2008 con un primo spettacolo che era appunto The Kitchen, da questo prende il nome la compagnia. E nel primo spettacolo eravamo tutti insieme, eravamo in 30, e da allora appunto la The Kitchen Company produce altri spettacoli, tra cui anche questo, un piccolo gioco. Fino al 25 aprile, un piccolo gioco senza conseguenze con Ilaria Falini nel ruolo di Chiara, Luca Vagliano nel ruolo di Bruno, e poi Daniele Parisi, Sergio, Diego Valentino Venditti nel ruolo di Patrizio e Daria Daloia nel ruolo di Alessia. Regia di Eleonora D'Urso. Mentre raccoglievo le mele, ho incontrato Chiara che andava al parcheggio. La sua macchina bloccava l'uscita, è andata a spostarla. Abbiamo un po' discusso. Ma va? Gliel'ho detto e ora mi sento meglio. Cos'è che le hai detto? Che siamo stati a letto assieme. Cosa? Cosa gli hai detto? Le ho detto che siamo stati a letto assieme. Ma sei impazzita? Perché non siamo stati a letto assieme? Sì, sì, ma perché gli hai detto? Ne avevo bisogno, ora mi sento meglio. Ora mi sento meglio, ma che significa? Ero divorata dai rimorsi. Alessia, siamo stati a letto 2 anni fa, sei ancora divorata dai rimorsi? Non più, adesso va decisamente meglio e vedrai, aiuterà anche te. A fare che? A staccarti da lei, Bruno, devi voltare pagina. No, ditemi che non è vero, non può essere vero, che cosa le hai detto esattamente? Che siamo stati a letto assieme, no. Che abbiamo avuto una relazione. No, no, non è la stessa cosa, eh. Andare a letto assieme è una cosa così, una sera per ridere, ubriachi fradici, avere una relazione... Non eravamo ubriachi fradici e mi è rimasto un bellissimo ricordo. Chi se ne frega? Cartellone. E adesso andiamo a Torino, dove è in corso, ultimi 2 giorni, di un festival particolare, l'Alba del Narrare, un po' per ricordarci quello che era il teatro dell'inizio, il teatro evento, manifestazione, quasi le feste dionisiache dell'antica Grecia. E allora andiamo intanto alla Cavalezza Reale Manica Corta per parlare con uno degli organizzatori, Alfonso Cipolla. Si inizia questa sera con Ricordo e Passione, la passione di Cristo. Buongiorno Alfonso Cipolla. Buongiorno. Ricordo e Passione è uno spettacolo, non spettacolo, come tutti gli appuntamenti dell'Alba del Narrare, fatta dalla compagnia storica Peghinelli Cristofa, che è una delle ultime, è stata una delle ultime compagnie a girare l'Italia a carattere familiare, andare anche nei centri minori, tipo la compagnia dei genitori di Franca Rame, e che negli anni 60 poi ovviamente sono tutti scomparsi e avevano un repertorio molto strano, tipo le due orfanelle, il padrone delle ferriere, eccetera. In particolare loro chiudevano sempre con la passione di Gesù Cristo, che era anche un modulo per richiamare molta gente in teatro, perché ovviamente quello spettacolo ha bisogno di tantissime comparse che venivano arruolate tra la popolazione stessa, quindi con un pienone, quindi con un buon incasso, chiudevano la permanenza nei vari paesi e poi giravano anche trainati a cavalli, con i carrozzoni, eccetera, ancora per andare in un'altra piazza. Sì, ma vedo che è un... perché voi fate, iniziate dalle 20:30, Ricordo e Passione, poi alle 22 certo. Avete Beati perseguitati a causa della giustizia, esatto. Perché di essi è il regno dei cieli, dialogo tra Gesù Nazareno e Pinocchio incarcerati. Beh, insomma, un accostamento un pochino particolare quello lì tra il burattino di Collodi, certo, e Gesù Cristo. Questo qui è dovuto alla genialità di Gigio Brunello e di Giulio Molnar, che sono due artisti che lavorano molto con Pupazzi, con Burattini, ma con una genialità molto particolare. Più che uno spettacolo di Burattini, sembra un'operetta morale di leopardiana memoria. I due sono reclusi entrambi, Gesù Cristo e Pinocchio, in due celle contigue, non si vedono, non sapranno fino alla fine chi sono uno rispetto all'altro, parlano e nel loro parlato molto poetico e molto struggente viene fuori uno spaccato di reinterpretazione del futuro e del destino molto particolare, che è un po' lo spirito con cui questa manifestazione si svolge, cioè un teatro che sia un teatro in qualche modo necessario, non fatto di scenografie, di orpelli o di apparati, ma di qualcosa di significativo da dire, un po' appunto come il teatro delle origini, cioè una necessità necessaria, scusatemi il pisticcio, ma è fondamentale. Poi domani Cavallerizza Reale a manica corta, sempre alle 20:30, Amor di Patria alla Via Crucis di Gianduia. Certo, qui abbiamo l'opportunità di avere l'ex sindaco di Torino, Diego Novelli, che tra le altre cose, tra gli altri saggi, ha scritto anche una sorta di feuilleton, un romanzo popolare intitolato appunto Amor di Patria, che ripercorre una pagina molto scura del nostro risorgimento, cioè nel momento in cui la capitale da Torino si viene trasferita a Firenze, in realtà questo avvenimento è fatto un po' per tarpare le ali alla unificazione d'Italia, e la convenzione di settembre in qualche modo limita molto, ma di questo punto si saprà, e in quell'occasione ci fu quella che si può essere definita la prima grande strage di Stato, più di 60 persone rimasero morte, ammazzate per avvenimenti ancora in gran parte oscuri, e subito dopo questa pagina luttuosa del nostro risorgimento viene in qualche modo raccontata proprio attraverso la Via Crucis di Gianduia, che è uno dei capolavori della satira risorgimentale dovuta alla penna geniale di un illustratore dell'epoca che si chiama Silla. Gianduia, al pari di Cristo, porta sulle spalle la croce della redenzione, in questo caso quella dell'unità d'Italia. Intanto noi sentiamo delle note di sottofondo, quindi ci immergiamo in questa atmosfera tra il medioevale, il rinascimentale, che ci porta fino ai giorni nostri. Poi alle 22 la Passione a Treblinka. Una conferenza spettacolo, alle 22 una conferenza spettacolo, vi aspettate molto dai vostri spettatori? No, ma sono tutte cose molto piacevoli, nel senso che il taglio è quello di non fare degli incontri per pensare, ma non necessariamente il pensiero deve essere qualcosa di uggioso, di pesante. Luca Scarlini è forse uno dei più colti sicuramente dei nostri drammaturghi, ed è un affabulatore eccezionale, riesce a parlare delle cose più disparate, anche grevi, con una leggerezza e un umorismo decisamente garbato e sottile, e in questo caso racconterà un romanzo di Grossman che si trasforma anch'esso in una sorta di passione laica. La passione, come si sarà capito, è il filo conduttore di questa manifestazione. Ecco, ricordiamo Vassili Grossman, Vita e Destino, non David Grossman, perché qui Grossman molto. Assolutamente. E soprattutto Vita e Destino, che racconta proprio tutta l'epopea russa di questi ultimi decenni, no? Tanto per distinguere. Allora, ricordiamo che per chi è a Torino in questo weekend, l'Alba del Narrare, abbiamo sentito molti appuntamenti e tutti quanti interessantissimi, alle 20:30 si inizia alla Cavallerizza Reale manica corta con due spettacoli, 20:30 e 22. Grazie. Grazie a lei. Prima nazionale due sere fa al Teatro Filodrammatici di Milano dello spettacolo Hemingway, un monologo sullo scrittore americano ideato, diretto ed interpretato da Corrado Accordino. Sarà in scena fino al 24 aprile, ce ne parla la nostra Alessandra Tedesco. La vita è troppo breve per qualunque cosa, tranne l'unica, in grado di sconfiggere la morte, la dignità dell'uomo. Si può scegliere di sconfiggere la morte, anche rendendola una nostra schiava, facendole fare il suo lavoro a nostro piacimento, così che si possa cantare la morte come si canta una canzone. Il mestiere di uccidere, però, non si deve concretizzare nel campo di battaglia e neanche in una carneficina del mattatoio. Si sceglie il toro come vittima perché è forte, coraggioso e dotato di una propria volontà al pari di ogni altro essere umano. E il toro può decidere di uccidere e allo stesso tempo il torero decide spontaneamente della possibilità di morire in un gesto di coraggio, di viltà e di sfida. Se scrive come se vive. Corrado Accordino, attore, regista, autore di Hemingway. Adesso eri proprio nei panni di Ernest Hemingway. In che parte dello spettacolo Buongiorno, eravamo? Buongiorno Alessandra. Eravamo più o meno nella terza parte dell'opera, quando lui comincia ovviamente in Spagna. La Spagna tra l'altro è il paese che lui ama più di ogni altro, che ha amato più di ogni altro dopo gli Stati Uniti. Siamo nella terza parte in cui appunto lui decanta e celebra questa grande passione che ha per la corrida, perché la Spagna è il terreno fertile per le sue meditazioni sulla morte. Cioè, dopo il periodo francese in cui conosce la vita, insomma, i grandi furori, conosce anche l'alcol, arrivato in Spagna comincia a conoscere un tratto molto particolare degli spagnoli, che è l'orgoglio e il buonsenso. E come dice lui, hanno buonsenso perché è l'unico popolo in Europa che riflette sulla morte, che si interessa alla morte e vuole sfidarla. Tutti temi che si ritrovano tra l'altro in Fiesta, uno dei romanzi più famosi di Hemingway. Sì. Ma perché tu hai deciso di dedicare uno spettacolo, un monologo a Hemingway? Ma innanzitutto perché è un autore che amo da tantissimo tempo, da sempre. E poi perché è il padre di tantissimi scrittori che poi ho amato negli anni successivi, che amo ancora adesso, da Bukowski a Kerouac a John Fante. Cioè, proprio lui è il padre di un certo tipo di scrittura, l'asciuttezza della scrittura, no? Ridotta all'essenziale, voleva scrivere senza fronzoli, no? Come dice lui, senza imporre il proprio punto di vista, voleva narrare e susseguirsi della vicenda senza abbellimenti neogotici, senza strutture troppo pedanti. È il padre di un certo tipo di scrittura che mi appassiona molto. Tra l'altro moltissimi scrittori contemporanei ancora oggi dicono di ispirarsi allo stile di Hemingway, che era anche un po' uno stile quasi giornalistico. Sì, assolutamente, Alessandra. Era giornalistico anche perché poi lui, ovviamente essendo stato anche un cronista di guerra, nasce come giornalista e quindi assolutamente ha sempre avuto questa passione, assolutamente, come dice lui, questo intimo senso del lavoro sulla quotidianità è ridotto sempre all'essenziale, sempre alla asciuttezza del linguaggio, l'immediatezza fotografica dell'immagine. Infatti mi ricordo che anche leggendo, poi ovviamente informandomi sui vari saggi, i vari studi che ho fatto, in realtà è stato anche molto criticato dai giornalisti di quel tempo, dai critici di quel tempo, perché dicevano che era un baro, perché si vantava di cose che in realtà lui non aveva mai fatto, come in Addio alle armi, perché ad esempio Addio alle armi parla della guerra di Caporetto, lui a Caporetto non c'è stato realmente, però sono state, lui ha trascritto tutte le testimonianze dalle persone che lui ha soccorso, dai feriti, perché faceva l'autista di ambulanza. Ecco, tu ovviamente ti sei documentata, avrai letto molto di Hemingway, tanto. Sia di cose scritte da lui che su di lui. Su di lui soprattutto, perché di lui ho già letto tutto, diciamo, negli anni. E trovo che ha scritto dei capolavori, accanto anche a dei libri ovviamente minori, soprattutto nell'ultima fase, quella più matura, dove cominciava ovviamente ad avere dei problemi anche, insomma, di depressione notevoli, di stato molto male, insomma, non riusciva più a scrivere, l'alcol l'aveva veramente devastato, poi ha subito 13 elettroshock, cioè quindi nell'ultima fase della vita ha subito veramente l'impossibile. Ecco, in questo monologo quindi tu ci racconti vita e opere di Hemingway. Sì, esatto, vita e opere, perché è strutturato come la cifra stilistica dello spettacolo è una cronaca, quindi utilizzando proprio la sua cifra stilistica da cronista, è una cronaca che parte dagli inizi del 1899 e si chiude nel 1961, in quell'atto estremo in cui lui si è suicidato. Quindi è strutturato come una cronaca, anno per anno viene raccontato tutto ciò che è più importante, più saliente dal mio punto di vista nella sua vita. E all'interno di questa cronaca si aprono delle finestre in cui si racconta la maturità, la conoscenza, insomma, dei personaggi che l'hanno educato alla scrittura, come Ezra Pound, Gertrude Stein, insomma quei personaggi che negli anni 20 a Parigi sono diventati punto di riferimento di tutta la letteratura, poi la Spagna, poi l'Italia nel frattempo, Londra, poi l'Africa, poi la Cina, poi Cuba. Insomma, è un viaggio nel mondo attraverso la sua vita, attraverso le grandi opere. Leggendo tanto Hemingway e tanto su Hemingway, c'è qualcosa che ti ha stupito, che tu non ti aspettavi di questo scrittore, che poi hai deciso di portare sulla scena? Una in particolare non so dirtelo. Cioè, quello che dicevano di lui mi ha un po' stupito. Nel senso che tutta la saggistica che ho letto su di lui, uscita post morte, quindi dagli anni 60 in poi, gli anni 70, lo aggredisce molto. Molta critica svela di lui invece un lato molto impotente come maschio, una fragilità dietro questa maschera che cercava di imporre. E questo è un lato che mi ha affascinato molto, cioè questa fragilità umana che in realtà c'era dietro la maschera del grande uomo. Cartellone. E adesso invece andiamo a Padova, sì, perché c'è una mostra particolare, una mostra che ci porta a sognare, la fotografia di cinema, fino al 30 maggio, e siamo arrivati addirittura alla sesta edizione. Si parla anche di un grandissimo maestro, un maestro del cinema polacco, Kieślowski. Enrico Gusella è responsabile del Centro Nazionale di Fotografia e curatore della rassegna Padova Aprile Fotografia. Buongiorno. Buongiorno a voi, i vostri ascoltatori. Allora, una mostra particolare, che cosa fate? Immortalate, ci fate vedere i momenti salienti della creazione cinematografica? Sì, quello che a noi è sembrato, come dire, singolare e opportuno in questa occasione, appunto, dal titolo a fotografia di cinema nell'ambito della rassegna Padova Aprile Fotografia, che è giunta alla sesta edizione, era appunto quello di cercare di coniugare questo aspetto fotografico cinematografico e quindi presentare degli autori anche originali della scena internazionale, da un lato Carlo Mazzacurati e dall'altro appunto Kieślowski. E su questo piano appunto presentiamo i lavori di Lucia Baldini e Giovanni Umicini per quanto riguarda Mazzacurati e di Piotr Jaksa circa appunto il lavoro cinematografico di Kieślowski. E ci sembrava appunto che una soluzione del genere potesse in qualche modo dare un quadro abbastanza originale, sicuramente anche in parte esaustivo, della produzione cinematografica di questi due grandi autori. Allora, per radio è molto difficile far vedere delle fotografie, ma noi ci sforzeremo. Di Carlo Mazzacurati, quali sono le immagini che impressionano di più? Ma sono un po' particolari. C'è sicuramente un'immagine, secondo me, che colpisce molto, che tra l'altro è anche molto suggestiva, perché è stata anche più volte utilizzata in vari spezzoni di film, eccetera, ed è sono alcune immagini con Fabrizio Bentivoglio e poi che riguardano appunto la lingua del santo. E infatti c'è un'immagine sua di Bentivoglio che è collocato all'interno di un'auto, che è molto singolare. E mentre d'altro canto, per quanto riguarda la produzione di Kieślowski, è molto originale anche oltretutto dai colori fantastici quello che lui presenta in questo tipo di fotografie di Piotr Jaksa, e sono di un'intensità tratti da quale film? Ecco, i film sono più di uno per quanto riguarda appunto la, però in pratica sono i famosi film blu, film rosso e film bianco, i tre colori, blu, bianco e rosso. Ecco, sono azioni che si sono svolte, le riprese sono state svolte all'interno di questa celebre trilogia di Kieślowski, sono state svolte a Parigi, Varsavia e Ginevra, e io trovo che siano di un'intensità straordinaria, e soprattutto emerge anche quella che è la potenza del colore in Kieślowski, e soprattutto anche la sua capacità, come dire, intimistica che lo caratterizza, perché lui tra l'altro ha più riprese, è in qualche modo il protagonista di queste scene nelle varie situazioni, per cui, come dire, sortisce anche un'immagine molto singolare di questo grande regista polacco. Padova Aprile Fotografia, sesta edizione, la fotografia di cinema fino al 30 maggio, due gli appuntamenti: Carlo Mazzacurati alla Galleria Cavour e Krzysztof Kieślowski al Museo Diocesano. Grazie. Grazie a voi. Palazzo Te a Mantova ospita fino al 27 giugno la mostra Gli arazzi dei Gonzaga nel Rinascimento, da Mantegna a Raffaello e Giulio Romano. Esposti 34 degli arazzi più belli appartenuti ai Gonzaga e realizzati durante il Rinascimento. Nello Forti Grazzini, curatore della mostra, al microfono della nostra Adriana Fracchia. Una delle rare occasioni in Italia, negli ultimi 50 anni in Italia, per vedere una mostra di arazzi Arazzi, e in questo caso una mostra di Arazzi uno più bello dell'altro, e gli Arazzi, essendo anche molto grandi, quando sono brutti sono infinitamente brutti, ma quando sono belli alla, diciamo, all'ennesima potenza. E questa è una mostra di Arazzi decisamente magnifici. A Palazzo Te, nelle fruttiere, circa 35 Arazzi appartenuti ai Gonzaga, che vanno dal 1470 al 1600, però 4/5 della mostra si concentrano negli anni tra il 1530 e il 50, e sono Arazzi di cartone italiano e di cartone fiammingo, fatti a Mantova, fatti a Bruxelles, appunto vicini al gusto di Giulio Romano, di Raffaello. I soggetti per lo più quali sono? Dunque, i soggetti sono, diciamo così, siccome i principali committenti, quelli interessati a quei 4/5 che ho detto, sono i tre fratelli che si chiamavano Federico II, duca di Mantova, Ercole, che era il secondo ed era avviato alla carriera ecclesiastica, naturalmente alta, e fu cardinale e vescovo della città. Il terzo, Ferrante, fu uomo d'armi ad altissimo livello, insomma il primo generale dell'imperatore Carlo V. Diciamo che appunto i tre ruoli corrispondono agli Arazzi che si vedono in mostra, che sono poi gli Arazzi di ciascuno, quindi diciamo propaganda politica ma a livello molto alto, molto raffinato. Per Federico II le serie dei giochi di Putti, Venere, dei Puttini in un panorama incantato, che vuole rappresentare l'età dell'oro di Mantova sotto l'ottimo governo appunto di Federico II. Serie invece più di tema religioso per l'acquirente che fu religioso, e serie profane però con un carattere spiccatamente militaresco per Ferrante, al quale appartiene la serie Mirabile, di cui abbiamo tre soggetti, che si chiama i Fructus Belli, che direi solo quelli valgono un viaggio da molto lontano per venire a Mantova a vedere questa mostra. La diversa funzione dell'arazzo rispetto all'affresco, cioè perché l'arazzo anziché un affresco? Per due motivi principali. Primo, l'arazzo costa, è difficile dire perché a seconda di come è tessuto, però l'arazzo può costare, diciamo, fino a 50 volte più di un affresco. Qui parlo proprio di termini di pagamento. Cioè, l'arazzo è uno spettacolo di fasto, e avere un arazzo rispetto a un affresco era un'idea di fastosità che un affresco non riusciva a dare. Tanto più quando un arazzo era tessuto non solo con lana e seta, ma con fili d'oro e d'argento. Teniamo conto che dietro un arazzo c'è un cartone dipinto, ma ecco, diciamo, il cartone corrispondeva all'affresco, poi in più c'era tutta il surplus della resa tessile, che era costosissimo. Poi, come risultato, è chiaro che l'arazzo è simile a un affresco, di fatto è un affresco tessuto, però proprio per questo l'arazzo era mobile con estrema facilità. Si staccava e si faceva viaggiare, un po' voglio dire, sulla schiena di un cavallo, di un mulo, su un carro, e dopo mezz'ora lo si rimontava in un'altra stanza a vari chilometri di distanza. Quindi per una corte era un decoro mobile che decorava 1000 stanze, mentre un affresco ne decora molto bene, ma una sola. E invece, scusi, i soggetti di questi arazzi sono stati realizzati, cioè l'artista che c'è dietro ha un nome in molti casi? Dunque, l'artista ha un nome in certi casi, a volte no, insomma, capiamo il giro, capiamo da dove viene, quindi in questo caso i nomi che abbiamo, ad esempio, sono Giulio Romano, e il suo erede a Mantova che si chiamava Bertani, e poi però abbiamo vari altri arazzi che insomma ruotano intorno alla scuola di Giulio Romano, lo stile raffaellesco romano dei tardi anni 20, quindi capiamo bene il giro, il gusto è chiarissimo, ma i nomi specifici ci mancano, sono soltanto ipotesi.